È la seconda fase di una campagna che è partita quasi subito dopo il crollo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Cancun. Partire da un piccolo oggetto concreto e spiegare più nel macro quali sono i meccanismi che lo trasformano in un vero strumento di oppressione economica e anche di aggressione, finanziaria di mercati poveri e fragili. Questa seconda fase della campagna, la prima è stata un successo oltre le nostre aspettative, abbiamo distribuito oltre 12.000 volumetti di spiegazione, abbiamo organizzato più di 100 incontri in tutta Italia grazie alle organizzazioni che si sono mobilitate. Come Tradewatch, che è questo osservatorio del commercio internazionale creato da appunto da Roba dell'Altro Mondo insieme a Rete Lilliput, a Campagna Riforma Banca Mondiale, a Manitese, all'ONG Crocevia e al gruppo d'appoggio ai movimenti contadini africani, passa in Africa. Cioè si ferma facendo un po' la storia del cotone nel continente dimenticato, nell'Africa. Spiega che cosa è significato l'impianto di un cotone annuale e ad altissima resa in Africa da parte della cultura coloniale e oltretutto l'abbandono della sua coltivazione nel momento in cui invece zone più produttive come la Cina o meglio organizzate come la Thailandia sono subentrate nella coltivazione della stessa fibra. E ora l'Africa sembra quasi abbandonata a se stessa. A livello di commercio internazionale ha chiesto in ambito WTO un trattamento differenziato per il suo cotone, ci ha chiesto aiutateci, noi dipendiamo da questa fibra, la maggior parte del nostro PIL, fino all'80, al 90% per alcuni paesi come il Mali e il Burkina Faso, aiutateci, cioè, tenete conto di questo, creando una sorta di governo del mercato. E a Cancun questo gli è stato rifiutato. Gli è stato rifiutato nella revisione dei trattati che c'è stata nel luglio scorso a Ginevra e in questa settimana in discussione a Ginevra una revisione, però insomma sembra che questa richiesta non sarà accettata. Come organizzazioni ci siamo mobilitati per denunciare questa situazione, per accompagnare questo percorso grazie a un'azione di pressione nei confronti delle istituzioni, ma anche per sensibilizzare il movimento rispetto ai temi del commercio internazionale, dandoci degli appuntamenti concreti nei quali scambiare esperienze, sostenendo anche progetti concreti. La campagna ha scelto un piccolo progetto di tessitrici eritree, sono delle sciarpe molto belle, confezionate secondo la tradizione del telaio a mano, con un cotone prodotto localmente, mo tutte molto colorate. È un progetto nato nel campo profughi di Mekete, grazie a un intervento di Manitese, che ha messo al lavoro ormai più di 50 donne capifamiglia, gli ha regalato un telaio e le ha riagganciate con una tradizione passata che peraltro le veste quotidianamente, perché le vesti tradizionali sono ancora l'abito più utilizzato in Eritrea, però era una tradizione del tutto dimenticata. Queste produttrici, che peraltro in questi giorni sono in giro per piazze, botteghe in Italia per presentare la loro esperienza, finalmente sono riuscite a riconquistare un reddito dignitoso per se stesse e per le proprie famiglie, agganciando questi piccoli telai a una rete di sostegno equo e solidale che in Italia sta crescendo proprio in questi giorni. Dal 10 al 16 aprile 2005 ci sarà una giornata mondiale di azione lanciata a Mumbai sui temi del commercio internazionale. Ci sono già oltre 300 eventi organizzati in tutto il mondo, da marce del grano in India, in oltre 30 stati dell'India, Bangladesh, in Latino America ci sarà tutta una serie di attività sulle aree di libero scambio, l'ALCA. In realtà è una chiamata molto forte e molto generale la mobilitazione. Ciascuna organizzazione potrà veramente fare quello che ritiene sia il punto principale della sua agenda, svolgerlo con mobilitazioni, azioni di pressione sulle istituzioni in quella settimana, concentrandola in un determinato periodo di tempo proprio per mostrare ai decisori politici globali che la società civile è pronta per proporre delle alternative.